известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. I'm a very strong supporter of Israel. I am very surprised, frankly, at this statement from the US government and from the Secretary of State. È praticamente un faccia a faccia, dicono l'uno il contrario dell'altra. Lei è il nuovo segretario di Stato dell'amministrazione Obama, si chiama Hillary Clinton, è una first lady che quando faceva la first lady baciò affettuosamente sua Arafat, destando già all'epoca lo scandalo, la protesta, il diniego da parte della comunità ebrea americana. Sta risuccedendo in queste ore in modo piuttosto deciso e violento, perché aspre critiche sono state indirizzate a Hillary Clinton da parte dei leader ebraici americani per le pressioni che starebbe Hillary producendo nei confronti di Israele affinché vengano velocizzati gli aiuti ai palestinesi, gli aiuti a Gaza. Sul sito della CBS c'è un vero e proprio articolo con interviste a più voci riguardo alla presa di posizione. Quella viene definita la presa di posizione dell'ex senatrice dello Stato di New York, e c'è quel signore che avete appena sentito parlare che si chiama Mortimer Zuckerman ed è il direttore del New York Daily News, uno dei quotidiani superstiti di New York City, che dice, ha appena detto: sono proprio sorpreso dal comportamento del governo, in particolare dal segretario di Stato, lo stesso segretario di Stato Clinton, che poco fa appunto in apertura del programma diceva: sono dalla parte di Israele, credo in Israele, proteggo Israele. Parecchie altre dichiarazioni al riguardo di questa nascente inquietudine, ad esempio quello dello Jewish Community Relations Council, che dice: non credo che dovremmo essere nella posizione in questo momento di rendere Hamas più forte, non dovremmo rendere Hamas più forte. Di fatto le pressioni di Clinton sono seguente la decisione espressa dall'amministrazione Obama di stanziare in questi tempi una cifra importante, ne abbiamo discusso un paio di giorni fa, $900 milioni a favore dei palestinesi per la ricostruzione di Gaza in seguito alla offensiva israeliana che seguì il famoso lancio di razzi. Tutto questo mentre siamo naturalmente alla vigilia di questo incontro a Sharm el Sheikh, questa conferenza internazionale per la ricostruzione della striscia di Gaza, così si chiama, sulla quale convergeranno naturalmente i personaggi più importanti di questo scacchiere, inclusa Hillary Clinton, inclusa Sarkozy. Tra l'altro si incontreranno per la prima volta nelle vesti di Clinton come segretario di Stato. Ma nel frattempo, e questa è l'ultima notizia che vi possiamo aggiungere, arricchendo lo scenario, ma soprattutto arricchendo il nostro scenario di una voce, la voce è quella di Paola Caridi, la corrispondente al Medio Oriente di Lettera 22, scrive anche per il domenicale del Sole 24 Ore e ha peraltro in uscita un libro da Feltrinelli intitolato Hamas, che cos'è e cosa vuole il movimento radicale palestinese. Ebbene, una delle risposte all'interrogativo posto al suo libro pare ce la stia dando la cronaca di queste ultime ore, perché pare che Hamas voglia mettersi d'accordo, stia ponendo le basi per un accordo piuttosto inaspettato con Fatah. Ma sentiamo meglio da Paola Caridi che cosa sta esattamente avvenendo e soprattutto che cosa comporta tutto ciò alla vigilia di questo vertice di Sharm el Sheikh. Buon pomeriggio Paola. Buon pomeriggio a te Stefano. Dici, raccontaci. Sì, si stanno mettendo d'accordo, ma qua in Medio Oriente il condizionale direi che è un obbligo, è fondamentale. Sì. Allora, ieri c'è stata questa riunione al Cairo, guidata da uno dei più importanti uomini d'Egitto, cioè dal capo dei servizi di sicurezza egiziani Omar Suleiman, personaggio che pochi conoscono nel grande pubblico, ma che è una delle figure più rilevanti, anzi forse la più rilevante dopo Hosni Mubarak. Uh-huh. Si sono riunite tutte le fazioni palestinesi e soprattutto Fatah e Hamas, i grandi avversari. Ora, una piccola correzione di tiro: non è stata solo Hamas a non volere il governo d'unità nazionale, ma devo dire che sono state tutte e due i più importanti movimenti palestinesi che condividono responsabilità, se non in parte uguali, beh, direi abbastanza. Certo. Ieri si sono riuniti a livello molto alto, perché c'erano stati dei contatti in questo anno e mezzo, da quando Hamas ha fatto il colpo di mano a Gaza nel giugno del 2007, ma a così alto livello non c'era mai stato un incontro assieme ad altre 13 fazioni palestinesi. E alla fine c'è stato un accordo che è piuttosto tecnicistico, direi, ma che secondo me prende di petto i punti più importanti del contenzioso fra Fatah e Hamas, cioè la sicurezza, il governo di unità nazionale di per se stesso e la grande nota dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che secondo un accordo del 2005 doveva essere riformato, ed era un accordo preso da tutte le fazioni palestinesi, e poi questo non è mai avvenuto. E questo è il cuore dell'accordo, nel senso che è stata poi l'OLP come rappresentante di tutti i palestinesi, sia nei territori palestinesi occupati, sia al di fuori, nella diaspora, tra i profughi, che ha firmato gli accordi di pace con Israele. Ecco, ma l'intenzione qual è? Quella di acquisire una presentabilità, come dire, una faccia anche che già contenga un dato di rinnovamento in vista di questo incontro con quegli interlocutori, che poi naturalmente sono anche interlocutori pragmatici, perché poi sono quelli che portano a un finanziamento decisivo, no, per la sopravvivenza di Gaza. 2,8 miliardi di dollari, certo, sono quasi certo. 3 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza, certo. Quindi sono bei soldini. Certo. Come dire, sì, è vero che devono essere più presentabili, non è che si presenteranno con un'altra faccia alla conferenza del 2 marzo, perché questo governo di transizione, che sarà fatto in gran parte di indipendenti, ma che comunque saranno indipendenti, che non saranno del tutto tecnocrati, si farà entro la fine di marzo, quindi c'è ancora tempo, e in Medio Oriente questi tempi morti, questi tempi di discussione sono sempre molto delicati e molto pericolosi. Si tenterà sì di dare una faccia, per così dire, presentabile, come diremmo all'occidentale, ma questa era già stata data nel 2006 e nel 2007, tant'è che questo tentativo mediato dagli egiziani sia, secondo me, quasi porre, tamponare quello che era stato un errore strategico della comunità occidentale, cioè quello di non aiutare la parte moderata dell'Islam politico, in questo caso di Hamas, ad abbandonare del tutto quella che loro chiamano resistenza e a gettarsi del tutto dentro la rappresentatività politica. Una cosa che succede per esempio in Africa, quando ci sono i movimenti armati che poi si trasformano in attori politici, e che invece in questo caso non era ancora avvenuto perché c'è ancora un conflitto in corso. Ecco, secondo me l'errore strategico negli scorsi anni è stato quello di non aiutare la parte, virgolette, pragmatica e moderata di Hamas ad abbandonare le ali più estreme. Ecco Paola, tra l'altro, come dicevamo in apertura, c'è nervosismo negli Stati Uniti alla vigilia della partenza di Hillary Clinton per il vertice, in relazione a queste posizioni che vengono giudicate non soddisfacenti da parte ebraica, e c'è peraltro nervosismo anche a Tel Aviv e a Gerusalemme, se è vero, insomma, sono agenzie dell'ultima ora, probabilmente ne sei al corrente, che c'è questo reiterato diniego da parte di Tzipi Livni all'idea di formare una ipotesi di governo con Netanyahu, e che quindi anche dall'altra parte, insomma, il disordine è sotto il cielo, e soprattutto l'individuazione, no, di quelli che saranno i reali interlocutori da qua a qualche tempo. Se ne sentono gli echi anche dove sei tu? Beh, certo, nel senso che si rischia sempre di più un governo di destra, certo, completamente di destra in Israele, dopo l'ultimo diniego di cui parlavi tu, di Tzipi Livni, che non vuole fare una coalizione allargata con Benjamin Netanyahu. E Netanyahu se lo ricordano molto le persone che stanno qua, ma anche i palestinesi, nel 96-97, soprattutto anche qualche leader di Hamas, perché fu proprio sotto la premiership di Netanyahu che ci fu il tentativo di omicidio di Khaled Meshaal, fallito ad Amman, condotto dal Mossad. Una cosa piuttosto nota, perché poi Israele dovette dare l'antidoto, perché Meshaal fu avvelenato, certo, e Israele dovette dare l'antidoto a Re Hussein, allora ancora vivo, per salvare la vita a Meshal, ma a parte questi vecchi ricordi storici, è vero che è l'ennesima fase delicata di questa parte del mondo in cui sono così tante le variabili che il prossimo mese di marzo sarà un mese estremamente, e mi ripeto, delicato, proprio perché da una parte ci sarà molto probabilmente un governo di destra e dall'altra ci sarà una forse ricompattata politica palestinese, ma dovremmo vedere se riusciranno a fare questo governo di unità nazionale, e peraltro con due presenze che la comunità occidentale dovrà riuscire a gestire, cioè quella del Likud, dei partiti della destra, e dall'altra parte quella di Hamas dentro un governo di unità nazionale. Grazie Paolo Grady, settimana prossima naturalmente torneremo sull'argomento, lo metteremo sotto osservazione al centro delle nostre cronache anche con il contributo di Paola. Concludo questa introduzione invece mettendovi al corrente della notizia a cui ieri abbiamo dedicato ampio spazio, ovvero all'annuncio ormai imminente, avverrà nella giornata di oggi, da parte del presidente americano Barack Obama del ritiro, dei tempi di ritiro dall'Iraq. Il discorso si terrà nella base dei Marines di Camp Lejeune. Il presidente comunicherà che la missione bellica terminerà, è stata fissata la data, il giorno 31 agosto 2010. Le forze americane che resteranno in Iraq intraprenderanno una nuova missione dal mandato più limitato, queste sono dichiarazioni ufficiali della Casa Bianca, in tre diversi settori: addestramento e armamento delle truppe irachene, protezione del personale civile statunitense in Iraq e operazioni speciali, secondo quanto reso noto da fonti governative. 50.000 effettivi circa sono quelli che resteranno di base in Iraq contro gli attuali circa 142.000 e una chiusura, questa è un dato ulteriore, una chiusura definitiva della missione, quindi l'ultimo Marine dovrebbe togliere lo scarpone dal terreno iracheno il 31 dicembre 2011. Poi ci sono tutti i distinguo, i però, i vediamo, ma comunque il generale Raymond Odierno sostiene di volere effettivi sufficienti per la garanzia dell'ordine pubblico in occasione delle imminenti elezioni, e si naviga un po' a vista, diciamo che quella è la prima tappa che sottoporrà eventualmente a revisione quanto oggi Obama annuncerà e quanto è stato sottoscritto. Comunque questo è un'ultima appendice anche da John McCain, l'ex rivale di Obama nelle presidenziali di novembre, che ha appoggiato il piano del presidente per il ritiro dall'Iraq. Ha affermato che il piano è ben preparato e da parte sua ha confermato che lo sostiene in pieno. In questo allora il famoso sforzo bipartisan di Obama, di cui spesso parliamo, dovrebbe funzionare, anche se poi funziona con riserva, perché se c'è uno che del bipartisan è un portabandiera da prima che Obama, quando c'erano ancora i pantaloni corti, è appunto John McCain. Anche questa da seguire. Cuore d'oro, Heart of Gold, questo è Neil Young, una America diversissima. Qui sarebbe da spendere ore e ore a parlare di un'America diversissima, lo faremo in un'altra occasione. Oggi abbiamo una scaletta piuttosto densa, tra poco, subito dopo notizie di borsa, arriva in studio qui da noi Stefano Cammelli, storico esperto di Cina, autore di un testo, di un saggio da Einaudi che si chiama Ombre Cinesi, lo avete ascoltato più volte qui in trasmissione. Oggi mettiamo sotto osservazione tematiche cinesi apparse sul nostro orizzonte negli ultimi giorni, soprattutto inquietudini che più che apparire riaffiorano e anche i vostri dubbi, i vostri interrogativi al riguardo. Ne abbiamo discusso ieri nel nostro spazio, nella nostra pagina, non sito, pagina, caro mio, si chiama pagina, siamo di Facebook, che si chiama Express Yourself, che andiamo immediatamente ad aprire. Express Yourself. Oggi abbiamo preso spunto da David Brooks, che è un editorialista del New York Times che ci piace parecchio, anche se non siamo praticamente mai d'accordo con lui. Ha scritto un bel pezzo intitolato, poi ve lo dico. Hai perso il segno direttamente. No, ho perso il titolo. Hai perso il titolo. Comunque, in sostanza, Brooks scrive: martedì notte Obama ha parlato di una cultura nazionale delle responsabilità. Eccolo qua, la cultura delle responsabilità era il titolo. Di come gli americani abbiano sacrificato il lungo termine per il breve termine, abbiano speso più di quanto potevano, di come i leader della nazione abbiano tradito le promesse e rimandato le riforme. Poi ha presentato il suo budget e sorge la domanda, scrive Brooks: le cose cambieranno veramente? E noi chiediamo a voi, risponda. Voi la percepite questa cultura della irresponsabilità alla base e ai vertici anche del nostro paese? No, è un fenomeno che riguarda anche noi, oppure ci possiamo sentire così, esentati dal senso di colpa? Stefano, io tra un po' mi metterò a piangere, non lo dico per piangere, ma veramente i commenti dei nostri ascoltatori sono molto ispirati, veramente belli. Allora, ti piangi per la qualità dei messaggi. Piangiamo allora, di qualità. Okay. Cominciamo da una donna, Francesca, che dice: noi abbiamo sublimato il concetto dell'irresponsabilità nel valore del io penso al mio, e scrivo la parola valore con un sorriso tanto amaro. Altissimi, ascoltatori altissimi. Poi c'è Sergio che secondo me fa il più bello di tutti, lo sottoscrivo in pieno: l'Italia è fondata sull'irresponsabilità da almeno 10 anni, forse è anche ottimista in questo. Figlia a sinistra di egualitarismo, bonismo e perdonismo, e a destra di classismo, liberismo e, tra virgolette, soldismo, che possiamo prendere come un neologismo inventato. Soldismo ci piace molto. Da Sergio. Bene. Vai. Chiudo questo giro con Cristiano, che invece è spietatissimo e dice: il mercato non si accontenta di volerti felice ed in salute, ti vuole obeso al volante di un SUV e possibilmente con più amanti a carico. La cultura dell'irresponsabilità allora esiste, mi sembra che esiste, la sentite, la vedete, la toccate. Giovanni dice: direi proprio che se c'è un paese che non deve sentirsi esente da sensi di colpa è il nostro. Non siamo un esempio di onestà e di ricerca del bene comune? Pino: la verità è che Obama si sta rendendo conto che sistemare le cose sia più difficile di quanto pensasse. Ma secondo me un po' lo sapevo. Flavio: credo che le cose in America possano cambiare, ma ci vorrà qualche anno. Per quanto ci riguarda, ci stiamo abituando al modello USA. C'era gente che andava in vacanza con dilazioni di pagamento, comprava elettrodomestici a rate, comprava mobili a rate, l'automobile anche, il famoso libretto di risparmio, sai, ti ricordi? Te lo fecero il libretto di risparmio, ce l'hai avuto? L'ho intravisto. Vai. Allora Enrico, per esempio, ci propone la sua ironia tagliente ma soprattutto amarissima, perché dice che più che sull'irresponsabilità l'Italia si fonda sullo scaricabarile. Siamo sempre ad aspettare che a fare le cose sia qualcun altro al nostro posto. Oppure c'è Giovanni, che invece ama il parallelo tra noi e gli americani, noi e gli Stati Uniti, e dice: l'Italia non si sottrae all'irrefrenabile spirito emulativo bipartisan, americani a tutti i costi, nonostante la ricchezza disponibile sia di livello bengalese. Roberto: il vantaggio sull'immediato, sulla scadenza elettorale, è un dramma anche da noi. Un esempio della cultura delle responsabilità, attenzione, è il ritorno al nucleare. Marino: io credo che con Obama le cose cambieranno, uno che ci crede. Valentina: in quanto cattolici, volenti o nolenti, il senso di colpa è impresso nel DNA di tutti, governanti e comuni cittadini. L'irresponsabilità non c'entra, essa è ugualmente genetica, ahimè. La cifra dell'Italia, dice Mauro, da almeno 20 anni è costituita dalla cultura dell'illegalità, che è cosa anche peggiore dell'irresponsabilità. Non ottimisti, non direi proprio di no. Va bene, un po' di musica e poi arriva Stefano Cammelli con noi. Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie, you broke the rules. You laid it down for all to see. You laid it down for all to see. Sexy Sadie, oh, you broke the rules. One sunny day, the world was waiting for the lover. She came along to turn. Sexy Sadie, the greatest of them all. Sexy Sadie, did you know the world was waiting just for you? The world was waiting just for you. Sexy Sadie, oh, how did you know? Sexy Sadie, get yours yet, however big you think you are. However big you think you are. Sexy Sadie, oh, you get yours yet. We gave her everything we own just to sit at her table. Sexy Sadie, she's the latest and the greatest of them all. Gradi news dai punti sensibili del pianeta. Rieccoci in studio, Stefano Cammelli è già con noi, adesso ve lo presentiamo, ma prima diamo una notizia, Emiliano, che ci serve un po' da rampa di lancio, esatto, da gancio, certo. Perché è arrivata proprio oggi e riguarda la Cina, che ha invitato il numero uno nordcoreano, il dittatore Kim Jong-il, per un vertice con il presidente Hu Jintao, proprio mentre i due paesi asiatici celebrano il 60° anniversario, un anno di anniversari questo, incredibili, dei loro legami diplomatici, e pare che Kim Jong-il abbia già risposto favorevolmente al l'invito. L'ultima visita di Kim in Cina risale al gennaio 2006, quindi 3 anni fa. Sì, Kim, secondo me farebbe bene anche, caro Stefano Cammelli, che intanto saluto, buon pomeriggio, grazie di essere qua con noi, farebbe bene a preoccuparsi, perché arriva dalla via ABC, il canale nazionale televisivo americano, ABC News, la notizia di una intervista all'ammiraglio Timothy Keating, che è il capo del comando per il Pacifico, delle forze americane, che fa sapere che tutto è pronto, tutto è stato approntato, siamo ready to be ready, siamo pronti a essere pronti per abbattere quello che loro sostengono essere un missile balistico coreano. Aspettano solo l'ordine del presidente Obama. Non è, dicono, un satellite lanciato in orbita. Tutto quello che abbiamo visto sono procedure di lancio di un missile test a lunga gittata balistico, e se questo avvenisse e il presidente facesse cenno, noi lo abbattiamo. Ma prima di arrivare ai temi nostri più specifici, ma non ti sembra una notizia un po' dottor Stranamore, voglio dire, non è una cosa così, perché non credo che i coreani si facciano abbattere i missili con questa leggerezza, no? No, bisogna entrare nella logica che nell'area del Mar Cinese o Mar di Corea o Mar del Giappone settentrionale, in ogni modo in quella regione del mondo si gioca una delicatissima partita a scacchi, dove sostanzialmente esistono due paesi che ne controllano altri due, gli Stati Uniti con Taiwan e la Cina con il Nord Corea. E simulando che l'elastico si allunghi e comincino diciamo così, tentativi di sganciarsi dalla leadership cinese da parte nordcoreana o dalla leadership americana da parte di Taiwan, si usano i due leader locali, uno a sud, Taiwan, e l'altro a nord, in Nord Corea, per saggiare le resistenze dell'avversario. È un game molto complesso, con il Giappone che gioca un ruolo fondamentale perché è saldamente schierato nei confronti degli Stati Uniti, sì, con la capacità della Cina di conquistarsi il favore del Sud Corea. Per cui questa base, che era una base, un gioco affascinante, io credo che non porterà da nessuna parte, perché il vero grande protagonista è Putin ed è la Siberia, con i grandi giacimenti di petrolio, le grandi risorse economiche. E quindi, ma certo, voglio dire, allarme rosso, eh? Allarme rosso. Dunque, se volete sapere in tempi ravvicinati i punti di vista di Stefano Cammelli, vi ricordo che c'è un sito che è www.polonews.info, che tra l'altro raccoglie, me lo confermi, solo fonti direttamente tradotte dal... I commenti nostri sono emarginati in una parte che molti dei lettori non trovano nemmeno. Noi traduciamo giornali cinesi e soprattutto documenti del governo e documenti diplomatici, da cui riusciamo a ricostruire la singolarità e specificità, oserei dire eccentricità, del punto di vista cinese. Cioè, ecco, non è un punto di vista che pretende di essere buono per tutti, certo, ma è cinese. Però è un punto di vista. È un punto di vista. Ecco. Polo News, tra l'altro, organizza, oltre a questo servizio di cui abbiamo appena parlato, mi sembra di grande interesse per capire qualche cosina in più, anche un incontro a Bologna dal 12 al 14 marzo 2009, quindi tra pochi giorni, intitolato Stati Uniti, Giappone e Cina, guerra e pace sulle rive del Pacifico. Dici due parole per spiegare che si tratta? Si tratta di capire che su questo argomento ci sono delle enormi confusioni strutturali. Il rapporto di Giappone e Cina non è mai stato un rapporto di soggezione. La Cina preme, diciamo così, che la Cina preme per includere il Giappone nella sua area in qualche modo di relazione stretta, e il Giappone, attraverso le battaglie che noi sappiamo, certo, sopra i vari santuari legati alla guerra, usa l'arma interna per sottolineare che in termini di rapporti internazionali il Giappone non è mai stato feudatario o in qualche modo tributario della Cina, ma è sempre stato un riconoscente alleato. Alleato amoroso, perché il rapporto tra Giappone e Cina è un rapporto di grande amore e di grande conflitto da sempre. Certo. Però agli amici ascoltatori, una delle cose importanti da ricordare, certo, è che da noi prevale un'immagine bellica del Giappone. Ma signori, ricordiamoci che il Giappone in tutta la sua storia è uscito dai suoi confini solamente alla fine del XIX secolo. Certo, certo. L'unica eccezione fu una spedizione che è stata poi ridicolizzata e chiamata Spedizione delle Ceramiche, organizzata da Toyotomi Hideyoshi, grande generale, adesso non fa, ma roba di una decina di anni. Il rapporto tra Cina e Giappone non è un rapporto di odio, è stato un rapporto di grande ammirazione e di grande scambio, che nel XX secolo, cioè in questi anni, negli anni dell'aggressione coloniale e dell'occupazione della Cina. Però Stefano, mi perdoni se entro su questo argomento. Voglio dire, leggevo le biografie di Owen Latimore, che è un grande studioso morto, vittima del maccartismo, insomma un grande americano, certo, che ha sofferto molto per le sue conoscenze di Cina. E in queste bibliografie si ricordava che gli Stati Uniti furono i grandi sostenitori del Giappone, certo, fino a Pearl Harbor. Certo, cioè, certo, l'orientamento, certo, generale degli americani nei confronti del Giappone era: povera Cina, completamente in rovina, piuttosto che quel corrotto di Jiang Zemin, di Chiang Kai-shek, noi ci appoggiamo sopra i giapponesi che porteranno la modernità. Ecco, allora, il tuo messaggio è che grandi sono gli equivoci sotto il cielo, e forse chiarirli, incontrarsi e chiarirli può essere un'occasione. Per fare il verso a Mao, tutto va veramente male, quindi tutto va veramente bene. Ecco. Dunque, abbiamo già alcune domande per te. Adesso il tempo, come al solito, alla radio è un po' tirando. Comunque, vi ricordo ancora questo appuntamento: Stati Uniti, Giappone, Cina, guerra e pace sulle rive del Pacifico. Bologna, 12-14 marzo. Credo che andando sul sito di Polo News si possano avere punto di vista. Sì, qualche cosa dovrebbe. Tutte le le informazioni relative. Alcune domande da parte degli ascoltatori. Una domanda prima da parte mia, interpretando un po' anche il senso di questa settimana. Le discussioni sono fatte qui o sui siti telematici con chi ci ascolta, che riguarda la Cina, poi l'affiorare queste nuove notizie di malessere, quando non di scontro, relative al Tibet. C'è tanta curiosità per capire se dopo questo 2008, no, un po' splendido, anche un po' anno di sogno, con la perfezione degli eventi, con l'Olimpiade, con la mano tesa, l'apertura, la visitabilità, la visibilità anche e tutto il resto, adesso ci si ritrovi a fare i conti con da una parte una crisi mondiale che sappiamo, l'Occidente che zoppica e tossisce, dall'altro questo paese di cui forse si ha ancora un po' una più destabilizzante sensazione, non solo di non aver capito, ma di aver capito un po' no, fischi per fiaschi, aver preso lucciole per lanterne. Dacci un po' la tua temperatura, soprattutto di quello di cui abbiamo parlato fino a poco fa, ovvero della possibilità di non capire, la possibilità di cadere ancora una volta in generalizzazioni pericolose. La situazione nei confronti della Cina è drammatica e di questo noi dobbiamo ringraziare una generazione di sciagurati sinologi che hanno contribuito ad alimentare un miraggio, quello di Mao, per non parlare poi degli esegeti, gli amanti della rivoluzione culturale. Basti dire che ci si trovano in libreria libri che raccontano dell'ingresso dei soldati cinesi nel 1949 nelle città a guerra di liberazione terminata, accolti da popolazioni festanti. Ora, nessuno è mai andato a vedere le stesse pagine di quello stesso giorno del Corriere della Sera, dove un personaggio non esattamente minore come Indro Montanelli racconta di gente che si attacca alla carlinga degli aerei, presente Da Nang, ecco, pur di scappare. Allora, qua c'è un problema gravissimo. Chi ha alimentato il mito della Cina ha fatto un pessimo servizio, tanto per cominciare, ai cinesi. Ha fatto un servizio disastroso alla sinistra italiana, che è ancora sotto shock, perché non sa più come riprendersi. Lo shock è finito con Tiananmen. Per la prima volta con Tiananmen gli italiani e la sinistra italiana ha capito che cos'è il Partito Comunista Cinese. Ma qua, mi perdona, voglio dire, qua c'è la contraddizione. La sinistra italiana e il mondo, se vogliamo, liberal, si è rivoltato contro la Cina proprio nel momento in cui, grazie a un grandissimo eroe del mondo contemporaneo, che è la figura di Deng Xiaoping, la Cina è riuscita ad uscire da una delle pagine più angosciose della sua storia senza sparare praticamente un colpo di proiettile. È riuscita a cambiare completamente la sua leadership. Adottando il metodo contemporaneo cinese, dirlo? Adottando il metodo... Allora, voglio dire... Per carità, Tiananmen è una pagina orribile, è un grande dolore, però... Fermiamoci un attimo, torniamo tra poco. Eccoci qua, torniamo in diretta con Stefano Cammelli, storico, esperto di Cina, autore di un saggio per Einaudi intitolato Ombre cinesi, responsabile del sito polonews.info, che, come ci spiegava, raccoglie solo fonti direttamente tradotte dal cinese, e soprattutto nostro interlocutore oggi e in tante altre occasioni, per provare così a dare una lettura la più vicina possibile, diciamo la più lontana possibile, dai luoghi comuni, non solo naturalmente l'universo cinese, ma anche di tutto quello che gli ruota attorno. Se è vero che Emiliano adesso ci ha appena portato appunto una agenzia che recita così: un monaco tibetano si è dato fuoco oggi nella provincia del Sichuan, un anno dalle proteste soffocate nel sangue dalle autorità cinesi, lo riferisce Free Tibet Campaign. Il monaco si è immolato dopo essere uscito dal monastero di Kirti nella contea di Aba, Cina occidentale, teatro nel marzo dell'anno scorso di manifestazioni pro-indipendentiste. Con sé aveva una bandiera tibetana tibetana, con la foto della guida spirituale in esilio, il Dalai Lama. Prove generali di un marzo che potrebbe assumere colori drammatici, o che cosa vogliamo dire? Guardi, io vorrei proprio dire una cosa, e vorrei che i nostri ascoltatori ne avessero chiara percezione. Le pagine più belle della cultura tibetana sono state scritte in un dialogo difficile, serrato, per niente amoroso, ma dialogo con la Cina. Le pagine più importanti della cultura cinese sono state costruite in un dialogo stretto e aperto con il Tibet. Le epoche più serene della cultura cinese e del mondo politico cinese sono state epoche di dialogo aperto e continuo tra Tibet e Cina. Ecco, io veramente vorrei dire pace, per piacere, pace, dialogo, basta con questo slogan. Non mi sembra ci sia aria di pace, di dialogo. No, ma poi da parte cinese sono inaciditi e cattivissimi in questo momento. Ma questa assurda battaglia del Free Tibet è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Signori, è bene avere chiaro questa cosa. Spiega la tua posizione. Ma la mia posizione è chiarissima, cioè se il Tibet deve essere indipendente dalla Cina, a me va tutto bene, ma dopodiché proclamiamo l'indipendenza di Venezia dall'Italia, certo, subito certo. Dopo, perché certo. La storia di autonomia da Roma e dal resto dell'Italia che Venezia ha avuto è paragonabile a quella del Tibet. Separare la storia del Tibet dalla storia della Cina è come separare l'onda dall'oceano, sono due cose diverse, ma non è possibile separarle. Bisogna che imparino a dialogare, e questo l'Occidente lo ha trasformato. Ma perché in... l'Occidente, proprio di questo ti volevo chiedere, provo a chiederti anche prima, in relazione agli umori, per esempio, nel nostro paese, no? Che si accendono così a intermittenza, no? Poi la passione, poi la sparizione del tema dalle prime pagine dei giornali, e poi questi filoni, no? di opinione così già così delineati, no? Per cui poi c'è un pro e un contro, c'è addirittura un sinistra e un destra. Di qualcosa riguardo. Stefano, mi chiedi di parlare non di Cina ma di Italia, e io su questo non sono più in grado di dire, certo. Voglio dire, certamente le persone che dietro molte persone che parlano di Tibet c'è una regia molto attenta, cioè non sono ingenui come sembra, e dietro la battaglia del Tibet delle persone più ordinarie, di quelle come possiamo essere me e te e tante altre persone intorno a noi, c'è banalmente un non sapere le cose. Cioè un non conoscere le cose, uno sente, poi attenzione, voglio dire, la figura del Dalai Lama è una figura splendida, cioè voglio dire, è facile cascare nel dubbio e sbagliare. Il Dalai Lama, io non so se politicamente abbia tutte le colpe che i cinesi gli hanno dato o se abbia tutti, non so niente e non voglio nemmeno parlarne, ma come figura mi sono letto i libri, è un amore di persona, ce ne fossero di persone così al mondo. Allora ovviamente poi riesce facile, no? Comprendere la parte per il tutto, e allora dire, se una persona come il Dalai Lama pensa queste cose, allora forse... Insomma, comunque voglio dire, il problema fondamentale è, in un paese come l'Italia, dove credo che ci sia una o al massimo due, posso sbagliare, diciamo tre cattedre di cultura tibetana in tutta l'Italia, dove non ce n'è uno che conosca esattamente... Ma di che cosa stiamo parlando? Ripeto, con questa fase provocatoria, certo, se non vogliamo il dialogo e vogliamo la guerra, va benissimo, prepariamoci all'indipendenza della Serenissima, con una bella cortina di ferro tirata su tra Bergamo e Milano. Tema interessante, anche come dire, un attimo spinoso a lanciare. Senti, almeno un paio di domande, ecco, qui arrivano i vergognatevi, Tibet Libero, e c'è anche un sì, Venezia Libera, però. Quindi, stupendo. I sassi hanno colpito la piccionaia. Almeno qualche domanda da parte dei nostri ascoltatori. Per esempio Piero ti chiede, riallacciandosi a quanto dicevamo in apertura, se secondo te, anche questa è una provocazione, la Corea del Nord a questo punto ha capito che c'è una crisi economica mondiale, che se secondo te, per le tue informazioni, vive ancora in un limbo comunista che credo lui paragoni a una grande muraglia. Io credo che nessuno sappia che cosa sta avvenendo nella Corea del Nord. Devo dire che credo nessuno sappia nemmeno che cosa sta avvenendo in Tibet, e anche quello che sta avvenendo in Cina credo che sia abbastanza difficile saperlo. È una partita a scacchi. A Pechino qualche tempo fa, parlando con una persona che non era, diciamo, un turista, era un funzionario di una certa struttura, lui mi disse una frase inquietante e disse: sì, noi abbiamo visto che in Occidente c'è molto nervosismo nei confronti dell'atomica coreana, ma però quando lei viene qui da me e mi chiede che cosa ne pensiamo, lei deve ricordarsi che Stalin ci disse che avremmo potuto contare sulla produzione atomica dell'Unione Sovietica, quando poi non solo Stalin, anche coloro che sono venuti dopo. Certo. E i cinesi hanno scelto di avere ugualmente la loro bomba atomica. Noi che abbiamo rinunciato alla protezione dell'Unione Sovietica, come possiamo costringere la Corea a rinunciare a non rinunciare alla nostra protezione? Ogni popolo vuole andare per la sua strada. Io... Senti, te ne faccio un'altra al volo, però devi essere bravo perché abbiamo 30 secondi. Per rispondere, ma mi sembra, come dire, troppo stimolante. Ci chiede un ascoltatore: quale paura mai, secondo te, ha la Cina nei confronti del buddismo? Non mi paiono estremisti religiosi, domanda. No, signori, qua è bene sgombrare il campo da ogni equivoco. Grande sovrapposizione. Esatto. Certo. Qua non c'è, a mio avviso, poi posso sbagliare, non c'è un problema di indipendenza del Tibet. C'è un problema di diritti civili e di libertà di espressione per le religioni. E su questo punto la Cina, per ragioni sue, che spiegheranno loro, non tratta. E quindi la repressione non colpisce solamente i monaci tibetani, ma colpisce qualunque struttura religiosa intenda essere autonoma rispetto al Partito Comunista, che ha un saldo controllo dello Stato, saldo controllo che ha utilizzato in passato per fare quello che sappiamo che ha fatto e nel presente per pilotare lo sviluppo e la crescita cinese. Non c'è un problema, a mio avviso, di Tibet indipendente. C'è un problema di riconoscimento delle libertà, dei diritti civili ed umani del Tibet. Questa è una battaglia vera. Ma Stefano, non è una battaglia vera solamente in Tibet. È vera nel Fujian, nel Shandong, a Pechino, è vera dappertutto. È chiara la tua posizione. Sigla, aspetta. Beh, Emiliano, che succede tema, di là? Tema caldissimo sul Tibet, devo dire moltissimi messaggi sulla Serenissima Libera, abbiamo una falange leghista che ci sta ascoltando, però chiudo con Gianluigi che invece su Facebook ci scrive: Stefano Cammelli è davvero un numero uno, spero sia più presente in trasmissione, grazie Jefferson 2, grazie, quindi tutti grazie. Felici di sono questo commosso. Messaggio. Noi ringraziamo te della tua presenza oggi in trasmissione, vi ricordo ancora www.polonews.info, io vi ricordo che questo è Jefferson 2, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Cammelli, Franco, Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantadori, la mail jefferson2@radio24.it, poi le pagine Facebook che sono redazione Jefferson 2 per connettersi con noi, criticare, proporre, interrogare e quant'altro. Invece per partecipare ai nostri forum si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, che è quello che vi chiediamo di fare sempre quando siete connessi con questa trasmissione, che in replica va a mezzanotte, poi la trovate in podcast e MP3 sul sito di Radio 24 e vi aspetta invece più o meno puntuale come sempre attorno alle 4 qui su Radio 24. Vi auguro anche un buon weekend. 社会本来就是这样，被误会又怎样，被相信又怎样，黄浦起着也许的人就心靠边站，个个说学非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲黑白分辨不清，观众也就跟着相信，最重要的是对得起自己不变的道理，高手过招戴着面具，谁能活得风轻神隐，我回家去打坐去学生养性，沉默的人最聪明，不做无聊的。